Radio 24 Reportage. Italia-Russia, un dialogo che continua nonostante tutto. Di Laura Bettini. Cosa cambierà nei rapporti Stati Uniti-Russia ora che c'è Trump? Chissà, è presto per dirlo. In settimana il presidente russo ha telefonato a quello designato americano. Una chiamata pare dai toni molto cordiali, conclusa con l'accordo di incontrarsi a breve. В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп не только сошлись в оценке. Perché ora la priorità, si sono detti, deve essere quella di normalizzare i rapporti tra Washington e Mosca. Rapporti che al momento sono assolutamente insoddisfacenti, dice Putin. E questo è noto a tutti. Le buone relazioni, le strette di mano tra i due ministri degli esteri, Lavrov e Kerry, sono andate diradandosi negli ultimi mesi in un crescendo di porte sbattute prima per l'Ucraina, poi per la Siria e infine proprio per le elezioni americane. Sono ormai 2 anni che gli schieramenti, composti da Stati Uniti e Unione Europea da una parte e Russia dall'altra, si sono inflitti pesanti sanzioni per le vicende ucraine, che però non hanno sortito l'effetto di una rapida attuazione degli accordi di Minsk, visto che ancora oggi le violazioni da entrambe le parti sono numerose e costanti, ma hanno certamente danneggiato l'economia russa ed europea in generale. Italiana poi in particolare. Spesso parliamo dell'agroalimentare, ovvero il settore colpito dalle contromisure russe, ma ci sono anche quelli colpiti dalle sanzioni europee, la difesa, l'energia, il sistema bancario, ad esempio. Si tratta di milioni e milioni, dice Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia, promotore con l'associazione Conoscere Eurasia del recentissimo forum eurasiatico di Verona. Le sanzioni colpiscono dei settori merceologici di cui l'agroalimentare non è il più importante. Per noi l'agroalimentare pesa grosso modo fra i 700 e gli 800 milioni di euro l'anno, non sono i 250 milioni che alcune statistiche rivelano, ma altri settori tecnologici più sensibili alle sanzioni è quello dell'alta tecnologia. Io ne prendo uno per tutti, la tecnologia per la trivellazione di fondi marini molto profondi. Quella è una tecnologia che vale una decina di miliardi, una decina di miliardi. Bloccati ci sono contratti importantissimi, per esempio lo stesso Espeghe di Yamal, lì sono contratti fermi, sono stati finanziati, c'è tutto, eppure a livello di compliance non danno il via libera, nonostante sia il settore del gas non sanzionato, quello che sappiamo tutti, il nostro Ministero delle Finanze, perché esiste un comitato che si chiama Comitato di Sicurezza Finanziaria. In giugno a San Pietroburgo, quando l'Italia fu ospite d'onore del forum economico, Matteo Renzi dibatté con Vladimir Putin sul palco e il clima era certamente più disteso. Aziende italiane e russe siglarono diverse intese di valore in vari ambiti, intese che però non hanno fatto molti progressi a causa del raffreddamento dei rapporti avvenuto in estate. Il dialogo deve ripartire, dice Vittorio Torrembini di Gimun Impresa, associazione di imprenditori italiani in Russia, e non solo per il bene del business. Credo che oggi la politica abbia grandi difficoltà a trovare dei fili di comunicazione seri, eccetera. Io credo che noi, come espressione della società civile, il business, la cultura, le associazioni, eccetera, abbiamo il compito di dare degli impulsi alla politica perché si ritrovi la strada del dialogo. Abbiamo il dovere di essere costruttivi, di creare dei fatti concreti, di stimolare la politica al dialogo. Nel momento in cui però arrivano segnali che sono assolutamente negativi e controproducenti, dobbiamo dire la nostra. Allora, c'è una debolezza europea da un punto di vista politico in questo periodo. C'è più compattezza tra gli imprenditori europei rispetto ovviamente alle relazioni con la Russia o... No, no, c'è una grandissima compattezza. L'ultima cosa che le devo chiedere è una ricaduta di quello che si era deciso di fare a San Pietroburgo. Come vanno le cose rispetto a quegli accordi? Ci sono dei passi in avanti su tutta una serie di accordi. Ci sono altri accordi anche importanti, diciamo anche dal punto di vista economico, che hanno dei blocchi proprio a livello politico invece. E chi prende il vostro posto se questi nodi non saranno sciolti? Il più sveglio. Imprenditori per la pace? Bisogna agire in tutti i contesti, anche quelli non specificamente deputati, ha detto al forum eurasiatico il gesuita ed economista Luciano Larivera. Nel 1689 ci fu il primo trattato di Nerskinsk tra la Cina dell'imperatore Manciù Kangxi e la Russia con l'imperatore Pietro I il Grande. Pietro I voleva allargare i suoi spazi commerciali alla Cina, ma aveva un problema. I cosacchi entravano in Cina e facevano razzia per ottenere pelli e grano. E decisero che occorreva fare un trattato di pace, definire i confini, ma per fare affari in comune, perché l'altro non fosse una minaccia per l'altro, ma perché i confini fossero aperti. In questo episodio della storia parteciparono anche i due gesuiti, un francese e un portoghese. Tra loro poi ovviamente non è che andavano sempre d'accordo, erano anche loro europei con le loro identità, però aiutarono l'imperatore in quella che fu la mediazione linguistica, la traduzione. Quell'accordo fu siglato e scritto in 5 lingue. I gesuiti fecero questo lavoro e alcuni anni dopo ottennero dall'imperatore un editto di tolleranza, che i cristiani non venivano più perseguitati. Come per dire che per raggiungere l'obiettivo ci sono diverse vie e che comunque la conoscenza reciproca apre spazi di pace, almeno potenziale. E perché no anche di ricerca. Negli ultimi mesi, tra Italia e Russia in particolare, si è aperta un'interessantissima collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica sui cambiamenti climatici. Se ne è parlato alla COP22 di Marrakesh in un incontro organizzato al Padiglione Italia. Il governo russo, infatti, finanzia una serie di iniziative in cui ha un ruolo centrale il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, il CMCC. Riccardo Valentini è docente dell'Università della Tuscia, ma dirige anche la divisione del CMCC che si occupa di impatto dei cambiamenti climatici. Questo CMCC è un centro di eccellenza, ce ne sono 4 in Europa, in Italia appunto c'è questo centro che ha un super computer, proprio un vero e proprio centro di calcolo avanzatissimo dedicato proprio agli scenari del clima, e infatti il CMCC è uno dei partner delle Nazioni Unite, dell'IPCC, per diciamo lo sviluppo dei nuovi scenari. È stato richiesto di mettere in piedi proprio in Russia un centro di analisi degli impatti del clima, che sia a servizio soprattutto della regione a est, nell'area Asia-Pacifica. Quindi parliamo in questo caso di un accordo con l'Università di Vladivostok. A San Pietroburgo il CMCC partecipa di studi che sperabilmente porteranno alla realizzazione di un polo tecnologico per il fotovoltaico organico. Uno studio messo a punto a Roma, all'Università di Tor Vergata, dopo che i primi passi erano stati compiuti, guarda caso, a San Pietroburgo. Una straordinaria comunanza di intenti, che interessa molto tra l'altro a Officine Verdi, una realtà italiana che con il suo acceleratore di innovazione, Green Capital Alliance, si propone di identificare e di mettere nel mercato le innovazioni in campo di ambiente e sostenibilità. L'amministratore delegato Giovanni Tordi. Lavorando a 4 mani con il CMCC, il Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, stiamo mettendo a punto un sistema che consenta di valutare correttamente i geoclimatic risk, ma quanto poi questi impattino sulle commodities e quindi quanto poi impattino su, in chiave di rischi finanziari legati a degli investimenti di medio e lungo termine. Officine Verdi come gruppo e attraverso Green Capital Alliance come acceleratore di innovazione si muove per cercare di far incontrare la finanza internazionale e abilitare investimenti in questa direzione, che è una direzione totalmente 100% dentro il perimetro della Green Circular Economy. A Mosca invece il CMCC collabora con un laboratorio di innovazione avanzata per la robotica applicata all'agricoltura. In questo progetto è coinvolto il professor Ivan Vassiniev. We have good prediction scenarios Considerati i cambiamenti climatici, gli scenari per lo sviluppo dell'agricoltura in Russia sono tutto sommato positivi. Ma non abbiamo ancora tecnologie agricole specializzate e sistemi di allevamento adeguati in confronto ai nostri colleghi italiani. Riccardo Valentini è specializzato in queste ricerche e ha molte collaborazioni con l'industria. Nella produzione dei fertilizzanti, noi abbiamo ad esempio Eurochem Russia, che ora lavora con Barilla. Insieme possono ragionare su nuove specie, nuove varietà e l'aumento della produzione dei cereali in Russia. Quest'anno noi abbiamo avuto un record nella produzione in Russia, 170 milioni di tonnellate. Ma possiamo superare questo record, possiamo produrre grano di buona qualità senza abusare di fertilizzanti e sarebbe un beneficio per tutti. Come dicevamo, la ricerca per la pace, perché no? Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.